Sono stato convocato. Che vuol dire che sei stato convocato? Come cosa vuol dire? Non ci vuoi andare? Dimmi che devo girare, io giro. No, devo andare. Se ti convocano, tu vai. Possiamo cominciare! Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Su cose inesistenti devi stare zitto, devi tornare a casa e devi dire devo migliorare, punto, questa è la verità. Se poi su cose inesistenti tu vuoi creare un caso, vuoi far fare la pagnolada a Tizio, a Caio, vuol dire che sei messo fuori strada completamente e non riesco ad apprezzarti, non riesco a stimarti, ecco questo sì. Scuso per parapiglia finale, ma c'era molto nervosismo, c'era molta tensione, è arrivato a quel punto, quindi a prescindere se ci fosse o meno, ognuno c'era la sua interpretazione abbastanza chiara, mi sembra, ma Massa si è presa la responsabilità di dare il calcio di rigore, abbiamo visto dalle immagini che è molto distante, quindi l'ha deciso lui, ha visto lui i doveri, ma non ha detto che ha dato suggerimenti, questo è quello che perché Chiesa mi piaceva capire, io non potevo dire dalla panchina se ci fosse o meno il calcio di rigore, mi piace non parlare degli arbitri, anche se oggi è difficile, anche oggi, lasciamoli sbagliare in pace e quando sbagliano lasciamoli tranquilli e ci auguriamo che qualche volta quando succede per il Milan non succeda il finimondo come è successo qualche piccola volta. Ma è una Juve che davvero si sente sotto attacco degli avversari dal punto di vista arbitrale? Noi non bisogna sentirsi sotto attacco, io Gigi ha fatto delle considerazioni direi normali, la Juventus in testa al campionato, cioè 70 punti non si fanno a caso e a volte c'è un episodio a favore, a volte c'è un episodio contro. Può darsi si sia tre squadre di pazzi, può darsi siano successi episodi discutibili, che ti devo dire, non faccio il presidente degli arbitri, lui continua a dirci che noi abbiamo gli arbitri più forti del mondo, quindi crediamoci. Cioè Sarri è solo una battuta quando dice sono episodi o siamo tutti pazzi? Fatemi parlare solo di Inter-Atalanta. Ho solo grandissima stima per Sarri, posso dire questo, ma a me interessa Inter-Atalanta. E anche in quella famosa settimana non mi ricordo, ne sono convinto più che non mi ricordo, perché poi in genere siamo in pochi a parlare all'Inter, nessuno dell'Inter, nessun dirigente ha mai parlato, ha mai fatto considerazioni su quella partita. Poi ripeto, per Sarri la stima è enorme. Questa base non è un caso, è perché è la solita commedia all'italiana, abbiamo assistito anche troppe volte, no? Del caso De Marco, De Marco no, sarà il nostro ospite De Marco, più tardi, dopo le 15, proprio per parlare di questo fiume di veleni, di un'Italia spaccata in guelfi, bianconeri e ghibellini, tutti gli altri, sull'orlo di una rivoluzione, un fiume di veleni, il titolo inventatevelo da soli. Io chiedo Gianni De Biasi in linea? Non lo vedo. Sì, Carlo. Ciao Gianni. Allora, se Edoardo Lavezzari, che lavora in redazione per noi, non ha sbagliato i conti e se lo ha fatto lo licenzio in tronco, Giorgio De Luca, il nostro autore, Gianmarco Ferronato in regia, ha iniziato da calciatore nel 74. Giusto, e hai chiuso nel Bassano nel 1990. Da allenatore ha iniziato nello stesso anno nelle giovanili del Bassano, ne è seguita una brillante carriera che ti ha portato all'estero per tua fortuna sulla panchina della nazionale albanese, sta facendo molto bene. Giusto? Tutto giusto fin qui? Sì, tutto credo. Allora, quanti campionati di Serie A hai vissuto senza questi casini? Mai. Li ho vissuti solo esclusivamente in Spagna quando sono stato per 6 mesi al Levante, il resto credo che in Italia. In Italia sia la consuetudine. Poi sentivo adesso questo piccolo mix iniziale di esternazioni. Credo che tutto sommato quando una squadra come la Juve vince, credo per 6 anni, fate pure gli scongiuri che volete, di seguito al campionato, credo che un minimo di fastidio a qualcuno venga, specialmente a chi è l'eterno secondo, a chi è l'eterno terzo, a chi non riesce mai a cambiare la propria posizione, e ridurre tutto a la Juve è aiutata, mi sembra veramente una cosa che non sta né in cielo né in terra. Io credo che gli errori facciano parte dell'essere umano, che ognuno di noi sbaglia nel suo vivere quotidiano. io in primis, e credo che non possiamo sempre tirar fuori la dietrologia ogni volta. Invece di soffermarsi al bello del calcio, ci fermiamo invece alle sciocchezze, esatto, a quello che rende tutto di un banale, di un noioso incredibile. Poi è chiaro che insopportabile per me, dico, che vivo in questo ambiente e che hai la fortuna di lavorare all'estero, sì, no? Ma ho subito anche nel campionato italiano dei torti, ma li ho messi in preventivo, voglio dire, io ho avuto tante volte delle decisioni arbitrarie, ma non ho fatto della dietrologia, non ci ho costruito dei casi, anche se subito dopo la partita sei imbufalito per l'esito finale, capisci? Perché viviamo dei risultati, i risultati ci fanno dire male la settimana, ci fanno vedere meno bello il lavoro che tu stai facendo e tutto quello che stai applicando sul campo. Ma poi tra l'altro, scusa Gianni, poi è un discorso, poi c'è il discorso della sudditanza psicologica eccetera, che probabilmente esiste. Bruno Pizzolo era seduto in questo studio di fronte a me l'altro giorno, ed è Bruno Pizzolo di sopra, il maestro al di sopra di ogni parte, di ogni sospetto, e lui diceva: ma scusami, è chiaro che se tu, io e te giriamo per strada a Roma e incontriamo una persona che ci fa i complimenti o che ci saluta, che vuole fare un selfie, è un conto; se incontriamo il Presidente della Repubblica ci comportiamo in un'altra maniera, questo è normale. Credo che sia un atteggiamento umanissimo. Però da qui a dire che poi c'è una presa di posizione in base a se uno si chiama X o si chiama Y, credo che sia che siamo sulla strada completamente sbagliata. Con questo non voglio dire che non ci sia un'attenzione particolare quando si arbitrano determinati club, perché se sbagli condizioni un campionato, condizioni la lotta per il titolo e quant'altro, e quindi questo, come dicevi giustamente tu, è come incontrare la persona di grande prestigio che ti lascia lì, e non è come incontrare quello che ti chiede l'autografo, ecco, esatto, come incontrare quello che ti chiede l'autografo a Tirana, dove tu peraltro sei vicino alla presidenza della nazione, ma questo è un'altra cosa, ne parliamo un'altra volta, io ti tiro la volata elettoralmente parlando, non ti preoccupare. Piuttosto mi è sembrato la cosa peggiore del weekend non mi sono sembrate né le polemiche né gli arbitraggi eccetera, mi è sembrata la devastazione dello spogliatoio da parte dei giocatori del Milan, ma anche di questo voglio parlare più tardi, perché qui cito anche qui il solito Phil Jackson, allenatore di Chicago Bulls, di Jordan, che non conosco personalmente, non mi paga il suo editore, però lo adoro come personaggio sportivo, ho letto tutti i suoi libri, e racconta in uno dei suoi libri che una volta Shaquille O'Neal, in preda ai fumi della rabbia, entrò negli spogliatoi nell'intervallo e distrusse mezzo spogliatoio strappando una televisione da un muro. Lui entrò e gli fece un mazzo così, perché gli disse: è da incivili e da maleducati devastare la proprietà altrui, perché adesso ci sarà qualcuno che dovrà pagare i danni, che dovrà rimettere a posto, che dovrà rifare questo tipo di lavoro. Quindi la prossima volta, se vuoi, sbatti la testa contro un muro di cemento armato, la prossima volta che sei arrabbiato. Gianni, perdonami un attimo al traffico, torniamo subito, e io voglio parlare invece, prima di mettere la muta e buttarmi nel fiume dei veleni, ma senza di te, lo farò con altri ospiti, voglio parlare un attimo con te di calcio, di quello che è successo. Tutti convocati. Tutti convocati. Rispondo anche a chi mi scrive: bastardi, non lo dite che nel 2010 la Juve fu la Juve a devastare spogliatoio di San Siro, bastardi collusi mafiosi. Poi rispondo, ma adesso voglio parlare di calcio con Gianni De Biasi. Gianni, rincorsa alle posizioni Champions League, innanzitutto includi l'Inter oppure no? Sì, includo l'Inter perché la vedo in un buonissimo stato di forma, ha avuto qualche piccolo contrattempo, ma giocando con squadre sicuramente di valore, però ha continuità, una sua identità, e credo che quello che più mi fa piacere per il suo allenatore è quello che è diventata squadra, e vedo che condividono le gioie del risultato, il fare gol, vedo che si abbracciano tutti, sono segnali. Io guardo molto questi aspetti qua. Spesso volentieri, se tu hai possibilità di tornare indietro e rivedere le partite precedenti, quando magari c'era anche l'altro allenatore, non c'era tutto questo abbracciarsi tra giocatori. Cioè, ne segnavano pochini, non è che andassero molto bene. È un motivo in più. Non c'erano tanti motivi per scambiarsi effusioni. No, sono d'accordo, no. Però era un motivo in più, visto che ne segni pochi, almeno gioisci quando segni. È un modo di valutare anche quanto di compatto c'è all'interno dello spogliatoio. Ti rendi conto da quelle espressioni là e le vedi, perché sono l'espressione più vera, più autentica quando arrivi a far gol. Ascoltami, voglio fare una considerazione di massimo invece sugli allenatori, il ruolo che svolgi, ripeto, in linea con noi Gianni De Biasi, CT della Albania, nostra avversaria, attenzione, il nemico in casa, quanta paura ti fa Belotti? È abbastanza. Sinceramente. Quanto anche vale Belotti? Non ti dico in soldi, quanto vale come giocatore? Vale tantissimo, valeva l'anno scorso che ha fatto un campionato strepitoso, quest'anno si sta riconfermando su livelli ancora più alti. Credo stia raggiungendo veramente il culmine della sua maturazione, della sua carriera. Allora, la domanda che ti faccio è questa: la Roma prova a resistere, ieri sera ha vinto a Palermo dopo un periodo opaco, buio, con diversi problemi, diversi anche fraintendimenti, c'è Spalletti che evita ogni possibile domanda sul rinnovo del contratto, ora in polemica con Pallotta, ieri sera è successo qualcosa con Totti, eccetera eccetera, tra De Laurentiis e Sarri, bravissimo, c'è stato qualche screzio eccetera, anche lì tutte cose che conosciamo. Innanzitutto ti chiedo una cosa banale: chi vedi favorito per il secondo posto tra le due? Oddio, è durissima. Sono alla pari? Sì, io credo di sì, anche se poi il fatto di essere ancora su due fronti la Roma, e spero che lo sia fino alla fine di questa manifestazione, perché anch'io, giovedì ha buttato via una partita che aveva in mano in maniera incredibile, crollando nel secondo tempo in maniera inaspettata. Hai visto qualche segnale particolare lì? Lì ho visto una squadra che ha perso brillantezza nella mezz'ora finale, è andata in difficoltà, una squadra che ha giocatori sicuramente di livello, non può perdere una partita una volta che le hai là in mano, poi arrivare a pareggiarla all'inizio del secondo tempo come gli hanno fatto, però poi non puoi prendere i due gol finale che ti vanno veramente a creare grosse difficoltà nella partita di giovedì prossimo. Ecco. Io credo che adesso qui c'è tutto da capire se la Roma, impegnata su questi due fronti, come dicevo prima, ha ancora le batterie cariche o meno. In fondo, nelle ultime cinque partite ha perso una volta solo, ha perso col Napoli in casa, è un segnale, ma il Napoli è sicuramente una squadra da risultati importanti, che ha messo in difficoltà il Real Madrid per 50 minuti fino al primo gol del Real Madrid, dove si è un po'... Sì. Si è un po' demoralizzata, ma credo che abbia dimostrato di avere valori, di essere squadra e che nonostante le difficoltà dell'avversario, certo. creato difficoltà a loro. Certo. Grazie Gianni. Grazie a voi. Ti abbraccio. Piacere. Grazie ciao. Gianni De Biasi, come sempre. Allora, Tommaso Labate, buongiorno. Ciao ragazzi, buongiorno. Dove hai visto ieri la migliore... Ciao Tommaso. Dove hai visto ieri la migliore Inter dell'anno? Allo stadio o sul tuo fortunatissimo televisore? Sul fortunatissimo televisore da solo. Da solo. Pensa un po'. Ho rotto la consuetudine non della televisione ma della solitudine soltanto durante Inter-Roma. Avete capito poi che... Sarò a 90 anni a guardare Inter. Quindi da qui a là vai avanti col televisore coreano e da solo? Assolutamente sì. Tra un po' chiamo un dottore, ma tu non ti preoccupare, sistemiamo. Dai, componi il 118 e arriva qualcuno. Allora, Gianni De Biasi ora ci ha detto, ha confermato, corsa Champions per l'Inter ancora aperta. Beh, io comunque ho capito bene dal discorso del televisore della solitudine, ci metto nel calcio un tocco di scaramanzia, per cui io dico che la squadra fosse partita bene e non avrebbe avuto difficoltà a partecipare a una corsa, ma questa corsa secondo me in questo momento è molto, molto complicata. E, diciamo no. Che non siete padroni del vostro destino, diciamo assolutamente questo. Assolutamente sì, basta vedere ieri, la giornata di ieri hanno fatto tutte per me. Senti, un'altra cosa che mi ha colpito ieri, ma tu sei tra quegli interisti che hanno goduto come Ricci, più che altro non tanto per aver visto la migliore Inter della stagione, Icardi che gioca in questo modo, il recuperatissimo argentino che ha segnato, di cui mi Banega, vabbè ragazzi l'età, non è che ogni tanto mi capita che mi sfugga qualche nome. Sei tra quelli che più che godere per questo hanno goduto per aver distrutto Gasperini? Ma zero assoluto, anzi completamente no. Gasperini è un allenatore che stimo, è un allenatore che sta facendo benissimo. La prestazione di ieri tra l'altro secondo me non toglie un centimetro a quelle grandi cose che sta facendo l'Atalanta. Se parliamo dell'esperienza all'Inter di Gasperini, ma massimo rispetto per Gasperini, ma come si fa a mandare via un allenatore dopo tre giornate? Tre giornate, No, io perché io dico, se fossi Gasperini, insomma, vengo mandato via dall'Inter, la prima squadra grande che alleno nella mia carriera, dopo tre giornate con un punto, se posso prendere una rivincita anche verbale, se posso buttare qualche sassolino dalle scarpe, lo faccio con grande piacere. Ma se io sono interista, se io sono interista, dico, non è che posso incazzarmi con questo che l'han cacciato dopo tre giornate. Mi sembra un atteggiamento un po' miserabile. Spero veramente di sbagliarmi, ma penso che non esista un interista che ieri abbia goduto più per Gasperini che per la straordinaria prestazione. Gasperini a noi non ci ha fatto niente, e l'Inter che l'ha cacciato dopo tre giornate. Tra l'altro mi sembra una persona molto misurata, una persona molto simpatica, una persona che ha cresciuto un bel gruppo puntando sui giovani, ma come non si fa ad apprezzare quello che sta facendo per il calcio italiano e metterlo, diciamo, sullo stesso piatto della bilancia di una storia in cui l'Inter secondo me ha torto massimo, quindi assolutamente. Mi dai la possibilità però per dire che la sconfitta di ieri nulla secondo me toglie alla grande cosa nulla, che Gasperini ma è sta facendo per l'Atalanta e per il calcio italiano. Ma attenzione che 2-11 della squadra che è partita con Gasperini dell'Atalanta, e parlo di Caldara e parlo di Gagliardini, sono due secondo me titolari inamovibili della nazionale italiana del prossimo futuro. Certo, quindi certo. Massimo rispetto per Gasperini, anzi solidarietà per averselo incappato. No, te lo dico, ti dico che secondo me tra gli interessi sei in minoranza, ma questa è una mia impressione. 800 24 00 24, spero di non esserlo. Il mio compagno che mi mancava, Pierluigi Pardo. Eccoci, ma no, ma è in maggioranza, guardate, sono stati Gasperini. Non sono d'accordo, Pier, non sono d'accordo. No, possiamo lanciare un sondaggio così alla buona, ma cosa gliene frega gli interessi di Gasperini? Gliene frega. È stata una storia che non è sbocciata, che è finita presto, oltretutto una storia che è finita talmente presto da non lasciare, secondo me, nessun particolare strascico, no? Nel senso che voglio dire, semmai è Gasperini che potrebbe avere una rivalità particolare, perché è stato dal suo punto di vista una grande squadra che l'ha sedotto e abbandonato molto presto, ma dal punto di vista dell'Inter francamente Gasperini non ha creato nessun danno, è stato lì, è stato poco, forse anzi certamente avrebbe meritato più tempo, è andata male, fine insomma, no? Allora un'ultima cosa per Tommaso Labate, che devo salutare perché ha impegni col Corriere della Sera, che è il suo normale lavoro. C'è un'Italia spaccata, da una parte la Juventus e dall'altra todo il mondo. Che idea ti sei fatto dopo questo altro weekend di polemiche? Io sto con todo il mondo, ovviamente. Tu stai con todo il mondo, questo mi sembra evidente. Non lo so come dire, certe volte io mi viene in mente quella famosa storiella che raccontava dell'uomo contromano in autostrada, no? Che telefona alla mamma, alla moglie, quando sta in autostrada e dice: ma c'è un pazzo assoluto che sta venendo in appreso l'autostrada contro mano, l'ho scansato per un po'. E mo che stai facendo? Sto scansando degli altri. Quindi non lo so, è capace che tutta l'Italia sia in preda a un delirio contro la Juve, non lo so, non ho smesso di interrogarmi su questa cosa. Dico soltanto che queste polemiche in primo luogo non fanno bene alla Juve, che comunque è la squadra più forte del campionato e sta meritando, questo campionato. Se poi mi si chiede se quello di non mi metto a fare il bilancino di bisogno, se poi mi si chiede domanda, ma c'è un vento? C'è un vento? C'è una non tendenza? C'è. Io e Pardo lo chiediamo a Tommaso, ma su questo abbiamo la stessa opinione, quindi saremmo noiosi. No, voglio dire, c'è una tendenza statisticamente rilevante di favori arbitrali per la Juve? A me sembra di no. Guarda, io non te lo so dire se c'è una se la questione risponda alla statistica. Se a me mi domandassero quale tra le 1500 squadre che partecipano ai campionati professionisti della Lega Calcio Italiana e delle leghe a seguire ha avuto più favori dall'arbitro, dal gol di Turone adesso viene distinto di dire la Juventus. Se poi mi dici se il mio istinto coincide con quello di un sacco di gente e con numerosi provvedimenti di sentenze prese dagli organi incaricati nel calcio italiano, se non lo so, ti dico che il mio istinto solitamente inizialmente questo è un ragionamento storico sulla storia, non sulla cronaca, sulla storia degli ultimi 30 anni, non su questo stagione. Sulla storia degli ultimi 30 anni, che casualmente, purtroppo, mi dispiace per la Juve, però coincide, diciamo, per 30 anni con la mia presenza su questo mondo. Se fossi nato magari nel 1800 avrei protestato contro la Provercelli. Guarda, Gianni De Biasi, ne parlavo prima con lui, ha iniziato a fare calciatore nel 74, sta ancora facendo l'allenatore e mai gli è successo di vivere una stagione normale, almeno in Italia. Pur non avendo mai a che fare, non avendo mai giocato nella Juventus, né allenato la Juventus. Tommaso, ti lascio andare ai tuoi impegni. Pierluigi Pardo me lo tengo stretto dopo la borsa. Tutti convocati. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Convocati. So perfettamente che voi volete tornare a venerdì sera, mi sto mettendo la muta per attraversare il fiume dei veleni, lo farò dopo il GR delle 15. Ospiti Caronti per l'occasione, l'arbitro De Marco e Antonio Di Pollina, così affrontiamo due temi in uno, quello degli arbitri e quello delle TV. Intanto un primo assaggio, Pierluigi Pardo ovviamente in collegamento con noi, Davide dalla provincia di Pavia, primo ascoltatore, 800 24 00 24, il numero verde. Buongiorno. Non sono assolutamente d'accordo con quello che avete appena asserito. Meraviglioso. Torno a Inter-Juventus. Da ex arbitro vi dico che il calcio di punizione battuto da Chiellini era con la palla ferma, il giocatore avversario a distanza di gioco, l'arbitro non doveva fischiare. Il calcio di punizione è stato battuto dal luogo in cui è avvenuto il fallo, l'arbitro ha fischiato e ha fatto ripetere il calcio di punizione. Questo è un gravissimo errore che ha inficiato il risultato della partita, perché Icardi era solo davanti a Buffon, e dimostra una certa malafede di quell'arbitro nei confronti delle altre squadre che incontrano la Juventus. A seguito le immagini, tra l'altro, non sono state trasmesse, ma sono state fatte vedere semplicemente dopo. Il Napoli, 4 giorni dopo, si lamenta della stessa cosa delle immagini. Chissà quante immagini non ci vengono fatte vedere di cose strane che succedono. Allora questo mi interessa moltissimo. Poi c'è l'Udinese e poi c'è il Milan. Attenzione. Un attimo. Allora, sono 7 le squadre in Serie A che si producono le partite, tra cui c'è il Napoli, c'è il Sassuolo, c'è la Juventus, le altre non me le ricordo. Però questo è un argomento che mi interessa molto, tanto che ho detto Di Polina non a caso l'abbiamo convocato dopo le 15 anche per parlare di questo fronte, perché molti parlano di immagini che spariscono, molti parlano di ho sentito Caressa ieri sera dire che per avere un replay in telecronaca bisogna fare richiesta in carta bollata. Chi meglio di Pierluigi Pardo, principe dei telecronisti? Allora Pierluigi, mi spieghi questa maledetta storia? Mi dai una tua versione? Guarda, mi arrendo a quanto mi dici tu. La verità è che da quando c'è tipo di energia unica, e poi in realtà da parecchi anni l'energia unica c'è da parecchi anni, poi adesso da 2 o 3 stagioni l'energia unica è gestita direttamente dal gruppo di Bobby Bonnici e di Intra. Sono gli stessi registi che lavoravano prima per Sky, per Mediaset, cioè sono gli stessi, non è che ne hanno presi altri, magari qualcun altro l'hanno pure preso, ma sta Giorgio Galli è uno che faceva l'energia prima per Sky, per Mediaset, insomma, perché dico tanto per Sky, cioè non è cambiato molto sicuramente. Allora, per me, ribadisco, le tue parole per me fanno giurisprudenza. Fanno giurisprudenza per me perché io lavoro con te tutti i giorni. Tu hai dei problemi ad avere un replay quando chiedi un replay? Dipende. Certamente hai un segnale unico rispetto a prima, che poi è la stessa cosa che succede in Champions League. Perché non è che in Champions League, se tu fai la telecronaca di non so, Manchester City, Monaco, puoi chiedere il replay. Cioè, fai... è esattamente uguale all'NBA, cioè sono le produzioni centralizzate, giusto o sbagliato che sia. Il punto è capire se c'è il dolo e poi se si può migliorare, certamente ieri, per dirti, ho fatto Palermo-Roma, se ci fosse stata subito un focus sul famoso tocco che sembrava che ci fosse, ma in realtà non c'era, che lì Berossi cambia di fatto la sostanza, per cui alla fine il gol era buono. E noi il verdetto definitivo l'abbiamo dato all'intervallo con Bergonzi, che si è messo lì con le lenti e ci ha detto che il gol era buono, quando invece sembrava che il contatto col pallone ci fosse. Sicuramente non è il massimo, però io quello che dico è che diamoci una calmata, nel senso che il problema secondo me è poi non arrivare a fine partita, cioè non è che il telecronista in quel momento deve fare il moviolista, esatto. Il telecronista fa quello che vede con i suoi occhi. Io stavo in occhio di uno che fa questo lavoro e che però ovviamente è una partita che va avanti, e andando avanti la partita non è che si può fermare 10 minuti con le lenti a fare le moviole, i replay, la partita va avanti. L'importante è che poi ci sia in studio qualcuno che con le immagini ti dica questo è il rigore, questo non è il rigore, questo si poteva dare, perfetto, questo perfetto. Secondo me è il tema. Io non, a me non lo so, o è cambiato adesso, però questo voglio dire è un esempio di sarebbe un esempio secondo me di come si è argomentato il clima. Cioè non è che il telecronista in tempo reale che deve dare un verdetto e deve decidere. L'importante è che alla fine di un tempo, su un episodio importante, ci sia un giudizio definitivo. A quel punto poi il telecronista lo dice pure, perché io all'inizio del secondo tempo l'ho ridetta la cosa di Bergonzi che diceva che il gol del Palermo era regolare, l'ho sottolineata, perché a quel punto è ovviamente intellettualmente onesto sottolinearla. Perfetto. Però non è che È tutto chiaro, se no guardiamo direttamente la partita alla moviola e alla velocità normale la guardano solo quelli che sono allo stadio. Arriveremo a questo paradosso. Allora, io saluto e ringrazio Massimo Caputi innanzitutto. Ciao, buon pomeriggio. Ciao, e con te vorrei parlare di Spalletti, Pallotta, di Totti, un sacco di tee. Sentiamo questa introduzione. Noi ci sono capitate 14 partite durante il campionato dove in 14 volte abbiamo avuto due soli giorni di recupero. Se si va a vedere in quella che è una statistica europea, si vede che calano le vittorie del 40% nelle squadre più forti che hanno da giocare con soli 2 giorni di recupero. Quello che alcune volte non capisco dei miei calciatori, a volte si va a toccare un po' quello che è il livello di personalità, di autoconvinzione, di forza, perché in qualche momento a volte questo ci cala, come è successo in quel quarto d'ora, 20 minuti poi del secondo tempo. Ci sono diverse cose che bisogna chiarire soprattutto agli sportivi della Roma e a tutto quello che è il nostro movimento, che è un movimento importante. Io con il presidente sono entrato in un momento dove avevano un po' di difficoltà e non sono stato a vedere, non sono stato a chiedere niente, anche a fine anno non sono, ho accettato quelle che erano molte situazioni che erano già imbastite in precedenza, anche perché mi andavano bene. Si è fatto delle cose in funzione di quello che poi ci hanno portato via. Con il nostro pubblico sarebbe una storia diversa. Io non ho mai capito il perché poi si siano messi di traverso e che vadano più a fare una sfida con quelli che hanno creato poi questa difficoltà a loro, perché è una difficoltà per stare tutti insieme della divisione della curva, e loro ora abbiamo tenuto il punto. Più di fare dispetto a queste persone qui, creano poi difficoltà alla cosa che amano, che è la Roma. Questo non lo riesco a capire, come non si sia trovato poi un punto d'accordo, ecco. Premuta delle dichiarazioni di Spalletti degli ultimi giorni. Allora, Massimo Caputi e Pierluigi Pardo, lo chiedo a tutti e due. Massimo Caputi conosce benissimo questa realtà, Pierluigi Pardo pure, e tra l'altro è fresco di telecronaca della Roma di ieri sera. Abbiamo un problema? Sì, beh, secondo me sì. Per me c'è un problema tra la Roma e Spalletti, ma non è diciamo di ieri, ma è qualcosa che si prolunga da mesi. Anche le stesse dichiarazioni di Spalletti nel corso di questi mesi lo hanno evidenziato. Ieri credo sia stato ancora più preciso del solito, quando insomma ha stimolato quasi la società a venire fuori con quelli che possono essere i suoi obiettivi, no? Ha detto è la società che deve dire determinate cose al pubblico e alla gente della Roma. Poi sono arrivate anche le dichiarazioni di Pallotta. Io credo che sia difficile, a prescindere da quelli che saranno i risultati, portare avanti il rapporto tra Spalletti e la Roma. Tu escludi uno Spalletti bis, e tu Pierluigi Pardo? Io una non prosecuzione escludo, dello Spalletti bis, naturalmente. Sì. Spallotta, ho detto. Spalletti, pensa un po', pensa un po'. Non lo escludo, non è secondo me l'ipotesi più probabile. Non ti aspetta che non ti sento, ne approfitto per lanciare il traffico e ti richiamo. Tutti convocati. Faircam Transport, il vostro partner per trasporti a carico completo o parziale. Faircam.com vi presenta. Tutti convocati. Allora Pierluigi Pardo, mi stavi dicendo Spalletti bis. Sembra probabile che Spalletti vada via, però non mi sembra ancora certo, così come a me non sembra certo che Allegri andrà via. Ci sono dei segnali, e sono dei segnali di un grande domino che credo accadrà. Però è un domino, appunto, quindi Allegri potrebbe andare via, sì, sicuramente, l'ipotesi Arsenal è un'ipotesi suggestiva, ma l'Arsenal veramente cambierà? Sembrerebbe di sì, dopo 21 anni sembra arrivato il momento. Però, se non cambia stavolta non cambia più, amico Spalletti, mio, tifi anche Arsenal, c'è da augurarselo che cambi, perché va bene tutto, va bene il British style, però ragazzi questo è bollito da tempo. Penso che sia assolutamente il momento di cambiare, probabilmente anche da qualche anno. Credo che Spalletti di fondo abbia un cruccio, che è un equivoco di fondo che esiste, cioè lui ha una squadra che di fondo è una squadra forte, ma che non fa il salto di qualità sul mercato, cioè non riesce a crescere, e ha questa frustrazione, che è un po' la frustrazione da Roma, di arrivare continuamente seconda, qualche volta terza, di andare vicino agli obiettivi, ma di non avere poi le risorse per poter crescere. Cioè, io credo che lui consideri la Juve imbattibile in Italia. Vuole andare alla Juventus, sì, insomma. Non ho detto questo. Non hai detto questo, lo so. Mi permetto, scusate, di dire una cosa. È ovvio, sono d'accordo con te Pierluigi, la certezza non ce l'ha nessuno, vediamo, no? Però voglio dire, ha fatto ieri in particolar modo riferimento a una campagna acquisti che è stata deficitaria, perché ha citato la perdita di Digne, di Pjanic e di Gervinho. Praticamente ha fatto intendere che aveva chiesto dei giocatori, probabilmente, o dei rinforzi, e non sono arrivati. Questa querela del contratto, non firmo perché me lo devo meritare, se non vinco, se non firma Totti, cioè, siamo arrivati a un punto dove è anche difficile poter proseguire, perché mi sembra che le due strade si siano un po' separate. È vero che il calcio è particolare, che cancella tutto, però è mobile come la donna, cioè finché i risultati vanno bene, ma poi le polemiche e i dissapori ritorneranno fuori, e io non so. No, ma adesso però, scusa Massimo, allora chiariamo un altro equivoco, un altro punto. Adesso, dopo la questione dello stadio, che pare in via di risoluzione, molti romanisti si aspettano che Pallotta arrivi con il bastimento carico di dollaroni. Ora, questo avverrà oppure no? Ma no. No. Secondo me no. No. Anche secondo me no. Ma anche secondo me no. Magari ci potrà essere un po' gesto da parte di Pallotta, accontentato per lo stadio, giusto per un discorso, diciamo, di immagine sua, perché è chiaro che chiedi lo stadio dopo mille vicissitudini te lo danno, insomma qualcosa secondo me devi fare, no? Come in termini di apertura e di investimento. Ma, però non mi aspetto, anche perché gli stadi, l'ho ricordato mille volte, all'inizio sono investimenti, non sono, non è che guadagni subito, guadagni poi negli anni, cioè una volta che poi lo stadio è va fatto, a regime, tu ogni anno hai 40, regime, 50 milioni, ma ci vogliono alcuni anni, come dimostra, come dimostra la storia recente della Juventus, quindi non è che tac, si firma in comune, in regione, si posa la prima pietra e tu cominci a incassare denaro, non funziona in questo modo. Spalletti ce l'ha anche con i tifosi che hanno abbandonato la Roma, lì in parte ha ragione, non si può dire che non abbia ragione, ce l'ha un po' con la squadra e i suoi cali di tensione, è vero che non, la rosa non è profonda come in passato, è probabile che vada via, è probabile che ci sia un rimpasto di governo, eccetera eccetera. Poi io guardo all'estero, ma questa è un'altra storia, e vedo il Bayern Monaco che fa il triplete con anche se esonerato, e vedo Luis Enrique che ieri peraltro ha perso in campionato, vedo Luis Enrique che fa una impresa memorabile nella storia del calcio, meglio di me la vede Pardo, che ha avuto la fortuna di raccontarla ai telespettatori. Un'ultima cosa sulla Roma, poi salutiamo Massimo Caputi. Allora, ultima storia di ieri, che anche lì Pierluigi ne sei stato testimone, no? Anche se non hai microfoni in panchina, chiede a Totti di entrare in campo sul 2-0 e Totti dice no mister, mal di schiena, c'ho voglia. Allora, poi Spalletti l'ha confermato questo. No, lo spero e lo penso anch'io, nel senso che lui nel fare il riscaldamento ha avvertito poi questo problemino e mi ha risposto in questa maniera qui, come avete detto voi, per cui a quel punto lì ho sterzato su un altro. È un nuovo caso Totti? Ma io penso che il caso Totti Spalletti non finisca mai per certi versi. Credo però che ieri obiettivamente Totti avesse il mal di schiena, perché è una cosa che era venuta fuori anche nei giorni della vigilia, prima del match con il Palermo, quindi diciamo non è certamente una bugia, è certamente vero che con la partita sul 2-0 agli ultimi minuti della fine, diciamo, il mal di schiena ha fatto sì che insomma Totti avesse la giustificazione, ecco. Sei d'accordo Pardo? Sì, sono perfettamente d'accordo. Posso aggiungere una cosa su Barcellona, visto che l'hai detto tu, legata al discorso dei replay. Ecco, Barcellona, che è stata una partita meravigliosa, i replay erano lenti. Erano lenti e nessuno, non c'è stato un caso. Io da telecronista ti posso dire che i replay erano lenti. Sì. Però ecco, non c'è, ma tu trovi scandalo perché non c'è la squadra italiana dentro. Allora Pierluigi, per troncare il discorso, perché poi dopo le 15 ne parlerò con Di Pollina, per troncare il discorso, tu non trovi da telecronista alcuna differenza tra il commentare una partita di Champions League e il commentare una partita di campionato italiano, chiunque sia coinvolto? Assolutamente, ma proprio nella maniera più assoluta, voglio dire, poi ci può essere la volta in cui ti trovi meglio, la volta in cui ti trovi peggio, in Italia o in Europa, ma non è. Il principio è lo stesso, il principio è che tu hai un host che ti manda il segnale, quello è, anzi, in Italia hai la possibilità, della quale si è a lungo parlato dopo Juventus Napoli, di chiamare il produttore, di isolare le immagini ci sono tutte. Fatevi una chiacchierata con Bonnici che vi dice tutto in maniera... No, l'abbiamo fatto diverse volte, mille volte, no? E lo faremo ancora. Se mi posso permettere, certo, io, Massimo, diciamo, avendo fatto per tanti anni il telecronista, è indubbio che questa nuova linea sia dettata principalmente, io credo, per abbattere i costi, avendo due player importanti come Mediaset e Sky, insomma, avere, diciamo, due produzioni distinte, diciamo, non credo che convenisse a nessuna delle due, e quindi, diciamo, c'è una questione economica e poi c'è anche una questione politica. Io però credo che se un editore produce un evento per conto proprio è decisamente meglio, perché comunque sia il feeling che c'è tra un telecronista e il proprio regista e la propria produzione è decisamente un altro. Sono d'accordo con Pierluigi quando dice che il telecronista non può fare il moviolista, perché c'è una partita che va avanti, perché ci sono mille episodi, però dico anche che se io sono in telecronaca e vedo un episodio, chiedo al mio regista di farmelo rivedere, e se il regista è il mio, me lo fa vedere quante volte voglio. Ok, questo è un altro aspetto interessante da aggiungere. Grazie Massimo. Grazie a voi. Alla prossima. Non so se vuoi aggiungere qualcosa, Pierluigi, a quanto ha detto Caputi. Volevo dire a Caputi che sabato sono a Roma, quindi farò lo stalker golfistico. Ti aspetto, no, perché sono anch'io libero, quindi bene, chiamami. Bene. Io sarò a Roma mercoledì e giovedì per la cronaca, ma trasmetterò da là. Se volete ci organizziamo. Con il signor Caputi. E se non volete, mandatemi i messaggi su dove andare a mangiare, perché non passo di lì molto frequentemente, quindi ho perso un po' i contatti. Va bene, prepara inondo di messaggi. Fallo, fratello mio, fallo. Allora, prima di chiudere questa ora insieme e poi riaprire il discorso e rispondere anche a questo che mi scrive: bravo Genta, per non sputtanare i ladri juventini ti occupi della Roma, ma vai a farti fottere infame. Bellissimo. Massimiliano, buongiorno. Buongiorno, io volevo riferirmi all'intervento di un ex arbitro che ho sentito prima. Sì. Che addirittura ipotizzava che non venissero mostrate le immagini a favore della Juve in determinate partite. Volevo dire, meno male che non è rappresentativo della classe arbitrale italiana, perché mi sembra dire queste cose veramente illogico, assolutamente. Spero che gli arbitri, ecco, non siano tutti come la persona che si è sentita prima, ma abbiano... No, io guardi, io, allora, per tagliare la testa al toro, io oggi ho il monitor pieno, oltre che di insulti, anche di messaggi di ex arbitri, come un popolo di arbitri, di navigatori e di poeti. Saluto Pierluigi Pardo, che sentiamo domani, e lo ringrazio per avermi chiarito punto per punto tutti i miei dubbi, così poi con Di Poli ne parlo con cognizione di causa. Ciao Pier. Se mi posso permettere, in 10 secondi, sì? Il famoso Juve-Napoli, l'avevamo raccontato, il telecronista fa la telecronaca, lì serviva, se mi posso permettere, una figura, lì c'era Mario Sconcerti, che sì, nella vita non fa il moviolista, fa cose mirabili ed è uno dei padri del giornalismo sportivo italiano, e lì serve un moviolista. Lì serve un moviolista e serve una struttura che ti metta a disposizione le immagini. Pierluigi, mi stanno chiudendo, se vuoi intervenire dopo il GR lo facciamo. Guarda, ma adesso devo lanciarlo. Perché ho Tichita che è incombe, quindi incombe. Ci sentiamo domani. Ciao. Tutti convocati. Tutti convocati. Il segnale orario vi è offerto da Italia Legno Energia, Fiera di Arezzo, 24-26 marzo. Ricominciamo, tutti ai vostri posti! Tutti convocati. Attenzione, deviazione. Calcio di rigore al 95esimo. Non ci credo, Luca. Doveva già essere finita al 94esimo, ci danno rigore contro. Incredibile. Doveri, ancora lui. Ci lascia il 9 a Bologna, ci dà rigore contro al 95esimo. Che doveva essere finita al 94esimo. Mano! Rigore! Calcio di rigore! L'ha dato stavolta Massa. Di tutto fanno in questo stadio, di tutto. Lo sapevamo. Dai, giochiamo fino a domani mattina, tanto devono vincere loro, dai. Il braccio era attaccato. Loro gli piace vincere così di rigore, quando ormai la partita doveva già essere finita. Parte di Bala, gol! Doveva finire con 10 gol, finisce con i giocatori del Milan, tanto per cambiare, che vanno all'ennesima protesta contro l'arbitro, che ricordiamolo a tutti, li aveva già graziati dopo 8 minuti di gioco, non dando un rigore solare alla Juve. Abbiamo visto abbastanza. Ciao a tutti, ciao a tutti, ciao a tutti. Il sabato sera vissuto su fronti opposti, sempre davanti a un microfono e per una telecronaca, in questo caso, come sapete di parte, ma è giusto così, telecronista tifoso, Zuliani e Suma, Juventus e Milan, li avrete riconosciuti. Anche se in bocca adesso rimane soprattutto l'acido di Juve-Milan e tutto il rigurgito nauseabondo che ancora dovremo sopportare, compreso il parziale ribaltamento della realtà. Come se la Juventus avesse battuto Inter, Napoli e Milan non esprimendo una superiorità chiara, ma maneggiando, intrigando, blandendo, come se gli arbitri fossero merce da outlet. Se lo scrivi sei un gobbo, se non lo scrivi sei un nemico. In Italia non si può più esercitare la critica senza il pregiudizio sciocco del tifo. Allora, sto leggendo Maurizio Crosetti, mio amico, ma non perché mio amico, perché è un pensiero che mi va di condividere con voi su Repubblica. In questo caso io non scrivo, leggo e vado avanti. Ha fatto bene la Juve a tenere per sé le immagini dello spogliatoio imbrattato e scassato? Lo ha deciso per non offrire altro veleno, ma anche così non basta. In marcio è giusto vederlo e considerarlo tutto, non presumerlo e basta. Se davvero qualcuno qualche mano ha scritto sul muro ladri di merda, se proprio non bastavano gli scudetti di cartone e ci mancavano pure quelli di cartongesso, se veramente alcuni tesserati professionisti si presume nel pieno controllo delle proprie funzioni psichiche e fisiche hanno fatto i teppisti fuori le prove e che poi paghino in denaro loro, non la società, e squalifiche. Altrimenti era forse meglio tenere tutto avvolto nel sacco nero, quello dell'immondizia e dei cadaveri. Ripeto, copyright Repubblica, Maurizio Crosetti. Cristian, provincia di Venezia, buongiorno. Sì, buongiorno. No, niente, io volevo supporvi una semplice riflessione. Se la stessa azione fosse stata a parti inverse, cioè che Desilio avesse crossato sul braccio di Lichtsteiner e il rigore non fosse stato concesso, cosa sarebbe successo? Sarebbe stata la Juve ladra comunque, perché all'ultimo minuto non è stato concesso il rigore al Milan, giusto? I complottisti avrebbero pensato questo. Cosa pensate voi? Io penso che quello non fosse rigore, che quello del primo tempo fosse rigore, che quella di Massa sia stata una designazione sfortunata, mettiamola così. Penso che ci vuole anche un bel coraggio a fischiare un rigore che, secondo me, ripeto, non c'è, o quantomeno è enormemente dubbio in quel momento di una partita così delicata. Penso che questo fatto sia oggetto di movioli e movioristi, e ne abbiamo uno illustrissimo in linea. Non sia questione che debba riguardare più di tanto i telecronisti, come ci spiegava prima Pardo. Non sono per il complottismo, non vedo un vento favorevole alla Juventus in tutto il complesso nell'ambito di questo campionato, così come non vedo un vento favorevole di risarcimento nei confronti dell'Inter, qui contro la quale non è stato fischiato un rigore a Bologna ed era solare, contro la quale non è stato fischiato sullo 0-0, poi avrebbero vinto 7-2, avrebbero vinto 100-1, non so quanto. C'era un rigore netto per l'Atalanta ieri sullo 0-0 a inizio partita ed è stato visto in replay, commentato e giudicato e valutato correttamente. I rigori dati al Napoli sono generosi, così come era valido, l'abbiamo sottolineato, il gol del Palermo contro la Roma. Detto questo, io non vedo un vento a favore di nessuno, non vedo un vento in questo campionato, ma i venti soffiano su ogni campionato italiano, da che mondo è mondo. Mauro, provincia di Torino, buongiorno. Buongiorno. Dica. Ma io volevo dire semplicemente una cosa, che è questa. Io proverei a spostare il discorso dagli episodi, perché lì c'è qualcuno che deve giudicarli, al commento degli episodi. Detto che Suma e Zuliani si stanno guadagnando lo stipendio, per cui è inevitabile. Ma sì, ma è anche bello, ma è anche bello così, è divertente, no? Adesso non divertente. Facciamo i bacchettoni. Ma no, non è questione di essere bacchettoni, gente. Il ragionamento è soltanto uno. E la domanda che io pongo è, che non sento porre, per quale ragione gli stessi episodi vengono giudicati in modo differente. Non lo so. Ma perché uno di professione fa il tifoso e qualcun altro invece di professione fa il telecronista oppure il moviolista, Mauro? Pardo non dovrebbe essere un tifoso. e con un sacco di altra gente, cioè proviamo anche a elevarci un minimo, no? Direi. No, ma infatti Pardo non mi risulta che sia tifoso di alcuno. È il caso di. Non è importante, anche inconsciamente, il fatto che lei o qualcun altro dica sì c'era il rigore, no non c'era il gol, sì. Non è importante, cioè, proviamo ad andare oltre questo, io pongo una domanda soltanto, per quale ragione al 96esimo un rigore dato alla Roma contro il Cesena viene via con qualche sorriso, al 96esimo un rigore dato alla Juve scatena tutto quanto questo. Ma perché? Da che mondo è mondo le cose funzionano così, quindi è Juventus in questo momento, Juventus che è tornata grande, forte e potente contro tutti gli altri, Guelfi contro Ghibellini, così come è sempre stato in Italia, passando attraverso varie fasi, dalle più perverse come Calciopoli a quelle semplicemente immaginate nella memoria collettiva, come sta secondo me accadendo adesso. Grazie Andrea De Marco, ex arbitro di fama e ora moviolista di Mediaset. Ciao, buon pomeriggio a voi. Mestiere ingrato, il tuo. Senti. Esatto, era ingrato prima sul campo e ora anche in televisione, perché non è facile comunque giudicare e non è facile giudicare gli episodi, certamente. Io volevo parlare con te della designazione, l'abbiamo fatto nei giorni scorsi, ci siamo anche divertiti onestamente con Franco Ordine, con Zampini eccetera, la designazione di Massa e Doveri per questa gara a molti è sembrato una qualcosa di inopportuno da parte di Nicchi, altri lo hanno letto, io ad esempio l'ho letto come un atto di grande fiducia o quasi di sfida, siamo così sicuri di noi stessi che possiamo permetterci di designare per questa partita degli arbitri che hanno avuto recentemente episodi controversi proprio nei confronti di queste due squadre. Tu come la vedi? Poi si di Messina, che è lui che dovrebbe designare gli altri. Messina, il presidente Messina, l'allenatore tra virgolette. Ho detto una delle mille sciocchezze che dico ogni giorno parlando un'ora e mezza. No, perché poi c'è chi dice che sia Nicchi comunque che mette sempre l'ultima parola anche sulle designazioni, quindi non è proprio una sciocchezza. Diciamo che sì, è stata una designazione inaspettata quella di Massa, comunque, perché non, anche al di là della luce delle ultime gare che aveva diretto, arrivava da una partita a Genova-Sampdoria-Cagliari con molti errori e molte situazioni sbagliate, quindi non ci si aspettava il suo nome, e anche il designatore di solito aveva sempre mandato arbitri di un certo livello, di un certo calibro per fare partite di questa importanza, quindi sì. È stata una designazione a sorpresa da parte. Quando ho visto il suo nome ho detto finalmente un po' di cambiamento nei soliti nomi, perché i prossimi gli arbitri che ci sono adesso, Rizzoli, Tagliavento, Orsato, Rocchi, nel giro di qualche anno smetteranno, quindi ci vuole anche un ricambio. In questo momento un ricambio vero e proprio non c'è. Hai detto, meno male, un po' di palle da parte del designatore. Infatti, perché comunque è stata una scelta importante per una partita importante e ci si aspettava da Massa, perché Massa è un arbitro con molte, molte qualità, è stato considerato un talento, però da quando è diventato internazionale non ha mai dimostrato il suo reale valore. Io speravo che in questa partita ci fosse la possibilità di fare quest'alto di qualità, che in realtà poi per una serie di circostanze probabilmente non c'è ancora stato. Non c'è stato perché... Al di là degli episodi, diciamo l'episodio all'ultimo secondo, anche io sono d'accordo con la tesi, io non ho fatto la moviola della partita, l'ha fatta Graziano Cesare, ma sono d'accordo con lui sul non volontarietà nel tocco di mano, anche se comunque sappiamo che è una situazione difficilissima. Mi fallo di mano, io cercherei di semplificare la regola. Guarda, io non lo darei mai, io su quegli episodi non darei mai rigore, ma io non faccio l'arbitro, non l'ho mai fatto, non voglio assolutamente farlo. Ci vuole secondo me più chiarezza nel dare agli arbitri la possibilità di avere meno potere decisionale, di meno interpretabilità, perché certo. Se uno dice allora sul braccio largo, ogni volta che il calciatore mette il braccio largo, indipendentemente che sia congruo il movimento o non congruo, è sempre punibile, almeno uno sa, cioè la gente capisce, ma così non ci capisce niente nessuno. Ieri ho fischiato il fallo, ieri all'Inter-Atalanta non è stato fischiato il rigore per il braccio ancora più largo. No, quello lì era piuttosto netto. No? Sì, era piuttosto netto, sicuramente. Era piuttosto netto. No, assolutamente, però dico, non c'è questa uniformità e qui, come sul fuorigioco, ci sono alcune regole che devono assolutamente essere semplificate, bisogna cercare di trovare una semplificazione, diciamo. Una semplificazione che tutti possono capire e dire sì, così poi l'errore ci sarà sempre, finché non ci sarà poi l'utilizzo della movimento in campo, della VAR, sicuramente ci sarà sempre. L'errore sì. È normale, perché se poi si tratta di errori, è chiaro che quando avvengono così, come è successo al 94esimo e qualche secondo di recupero alla Juventus, in una partita come Juve-Milan, errore, cioè episodio poi decisivo, allora a quel punto è chiaro che poi sono errori che fanno sì, no, ma poi, di più rispetto poi Andrea, tu hai frequentato i campi di calcio per molto tempo, prima parlavo con De Biasi che li ha frequentati per ragioni grafiche da più tempo di te. E insomma è sempre stato, non abbiamo mai vissuto un campionato italiano pacificato, è sempre stata guerra, certo, contro sì, potenti, no, come ci sono guerra, sempre alcuni anche periodi, questo è il periodo della stagione quando ci, dove sì, spesso decisivo, ci sono polemiche, esatto, sì, perché è il periodo esatto, per il quale si decidono, ma, no, anche, ma normale. Quindi, poi vai a vedere, ma poi vai a vedere la stampa francese con un po' di invidia e sull'Equipe, il principale giornale francese, quell'episodio che ha dato il là alla rimonta del Barcellona era un chiaro errore arbitrale, non viene praticamente nemmeno citato, perché dice hai lì fai... Però spesso anche in Italia, io l'ho notato anche in Italia, quando ci sono degli errori su partite internazionali vengono giudicati in maniera diversa, bravo, rispetto bravo, a quelle campionate, anche questo, anche da noi succede così. Bravo, perché l'Europa è larga e allora sì, essendo esatto, larga, essendo larga, lì facciamo un po' più fatica a trovare i colpevoli, magari. È vero, un'ultima cosa, poi saluto già Antonio Di Pollina, che è il mio prossimo ospite. E che ciao, ti... eccoci. Guardi le moviole di Andrea De Marco, naturalmente, Antonio. Naturalmente. E come lo valuti come moviolista? Lascia stare che è qui presente. No, io limiterei solo un po' il tempo complessivo che si dedica a questo, ma poi direi che ci siamo e sono il primo a essere curioso in quei casi, quindi così. Dopodiché io non vorrei minimamente essere al posto di qualcuno di questi, che è tra le cose più complicate e meno, come dire, portatrici di consenso al mondo, qualunque cosa dici, sì, e esatto, qualunque cosa esatto. Fai. Dopodiché mi trovo sempre molto curioso che davvero sempre, non solo fra arbitri, ex arbitri, espertissimi e tutto, guardate che davvero su episodi di quel genere trovare due, tre pareri così, uguali, due, è complicato. Uguali è una cosa davvero sempre più difficile. No, ecco, una domanda che volevo fare ad entrambi, poi saluto Andrea De Marco e vado avanti con Antonio Di Pollina sulla questione telecronache, telecronisti, produzioni, eccetera, eccetera. Allora, io sono del parere di Pardo, ma lavorando con lui tutti i giorni, per me fa... abbastanza, e facendo telecronista di alto livello in Italia e all'estero, per me fa giurisprudenza. Allora, lui dice il telecronista fa il telecronista, poi serve un luogo deputato alla moviola, perché è vero che certe volte fai fatica ad avere il replay, questo accade in Italia e anche all'estero, però non credo che il flusso della partita debba essere interrotto in continuazione da situazioni di replay di moviola, cioè la moviola si fa da un'altra parte in un altro contesto e fuori dalla partita. Essendo un fruitore del basket, io mi incazzo da morire quando mi fanno il replay e magari mi perdo il canestro, ma questo è magari una deviazione mia. Voi come la pensate, Andrea De Marco e Antonio Di Pollina nell'ordine? Beh, sicuramente il fatto di fare la moviola in questo modo, come diceva Pardo, è corretto, credo. Giustamente, quando ci sarà poi, verrà introdotta però la moviola in campo, bisognerà fare probabilmente diversamente. Ci saranno anche delle tempistiche diverse. È chiaro che il tifoso poi tendenzialmente cerca sempre e vorrebbe sempre, quando c'è un episodio dubbio, una situazione di questo tipo, soprattutto quelle che riguardano un po' di gioco, area di rigore, vorrebbe probabilmente vedere subito, immediatamente, sapere subito qual è la Andrea, decisione. Però guardiamo la partita al rallentatore. No, infatti sono d'accordo che è meglio così lasciare fluire il gioco e poi dare le decisioni E poi alla vediamo, fine, poi vediamo, certo, perché poi tanto vediamo dopo, l'arbitro ha deciso così non si finisce più, e se no non si finisce più la telecronaca, la partita diventa un replay unico, la vediamo, vediamo tutto a replay. Grazie Andrea De Marco, sì, alla prossima. Grazie a voi, buona prossima. Buon lavoro Antonio, che la tua posizione qual è su questo argomento e su un argomento che sta spaccando ora, quello della regia unica, delle produzioni, di chi sostiene che alcune immagini vengono occultate, di chi sostiene che non c'è chiarezza, di chi sostiene tesi, anche tesi complottistiche. La tua opinione qual è? Allora, io innanzitutto ritengo che ci sia ora più che mai, e sarà sempre di più, temo, in avanti, bisogno che diciamo che il dosaggio di emotività che il tifoso, lo spettatore tutto deve avere nei confronti di una partita di calcio torni a essere più sbilanciato verso il piacere dell'azione di gioco, il prendersela con il difensore che sbaglia. Ma c'è stato un tempo in cui accadeva? Guarda, secondo me in era pre-social era una cosa quasi accettabile. Ora che inevitabilmente migliaia, decine di migliaia di influencer e così via guardano la partita anche e soprattutto per commentare in diretta, non se ne esce vivi, si arriverà a una sorta di punto di non ritorno, e ti dico subito qual è il punto di non ritorno. Il punto di non ritorno è che questa cosa della regia centralizzata della Lega, che tende per forza di cose, ma in maniera dichiarata, a mostrare la partita in maniera edulcorata, diventerà l'unica soluzione possibile se si vuole ancora giocare al calcio e mantenere al Ma a me è quella che piace di più. A me è quella che piace di più questa soluzione. Benissimo, ma siccome si stanno lamentando in tanti per il fatto che edulcorare, e usano appunto questo verbo che appartiene al cioè che in alimentazione appartiene a una sorta di avvelenamento della genuinità del cibo, quasi usano questo termine per dire no caspita, io pago e voglio vedere tutto, e se Sarri demolisce un pugno in testa a uno dei suoi perché ha fatto una cosa male, guai se non me lo fate vedere. Ok, possiamo starci, possiamo discuterne a lungo, è una faccenda di proporzioni che si stanno clamorosamente sbilanciando verso il lato emotivo del tifoso, sì, dello spettatore, tutto rivolto a quello che non è il calcio giocato, al piacere del calcio giocato. Io oggi vorrei solo titoli di nuovo su Sergio Ramos, che di nuovo ieri ha fatto, sembra un incantesimo clamoroso, per fare un esempio che non riguarda, per non citare cose nostre, altrimenti poi sì. Sì. Cioè, su quello siamo perfettamente d'accordo, ma quanti sono, in quanti vivono ormai questo gioco, questo spettacolo, questo show televisivo solo per guardare una partita di calcio? Esatto, il protagonista è un altro. un replay che dimostra che Guardaline aveva ragione nel segnalare il fuorigioco, ci restano anche un po' male, come quella linea tracciata sul fuorigioco di Bacca, che era in un modo invece che nell'altra, ma come addirittura hanno visto giù col ditino sullo smartphone, bravo per insultare chi che sia, invece mannaggia, è andata di figa, sono anche un po' arrabbiato. Antonio, grazie. Grazie, ti abbraccio come sempre, è sempre molto bello e divertente parlare con te. Sarà bello e divertente parlare con Riccardo Mancini di Fox domani. Ciao Riccardo. Ciao ragazzi, buongiorno a tutti. Perché questa sera c'è il Chelsea contro il Manchester United, grandissimo match di FA Cup, quindi Conte contro Mourinho, e quindi diamo una ghiotta anticipazione agli ascoltatori che interverranno in massa anche domani. Ne parleremo con te se sei d'accordo. Sì, per me va benissimo, stasera match imperdibile su Fox Sports, ore 20:45 da Stamford Bridge, siamo qui a Londra pronti a raccontarvelo, è un match insomma che per Mourinho può rappresentare pronosticone, una sorta di pronosticone, Pronosticone. Pronosticone è difficile, ma secondo me potrebbero andare ai calci di rigore, quindi insomma avete tutta la notte o quasi per vedere questa partita. Secondo me sarà molto appassionante, dai. Io voto United, non so perché, ma mi sento che lo United passerà questo turno, vedremo, e domani ne parliamo. Grazie Riccardo Mancini, che risentiremo ovviamente domani, vi abbiamo giusto anticipato questa pennellata. Ringrazio Giorgio De Luca, il nostro autore, Gianmarco Ferronato in regia, Edoardo Lavezzani in redazione. Ciao a tutti. Abbiamo visto abbastanza. Ciao a tutti.